storia del tagliatore di bambù. Non molto tempo fa, in una capanna, vivevano un tagliatore di bambù e sua moglie. Ogni mattina andava nella foresta per tagliare bambù e portarlo a casa. Lui e sua moglie, poi, lo usavano per fare diversi oggetti che vendevano al mercato. Erano una povera coppia senza figli, ma erano felici insieme. Un giorno, mentre tagliava il bambù nella foresta, vide uno strano pezzo di bambù proprio al centro. Il bambù brillava come la luna piena. Il tagliatore di bambù era molto curioso. Con attenzione diede un taglio leggero al bambù per aprirlo. E quando lo fece, non poté credere ai suoi occhi. È una bambina! Dentro c'era una bambina minuscola. Era grande come il pollice del tagliatore di bambù. Era la bimba più bella che avesse mai visto. Decise immediatamente di portarla a casa da sua moglie. Facendo attenzione, con la bimba tra le mani, tornò a casa. Doveva stare attento a non schiacciarla. Sbrigati, amore mio! Vieni fuori a vedere cosa ho trovato! Raccontò l'accaduto e lentamente aprì le mani. Immediatamente tutta la loro casa si illuminò. La coppia ne rimase sorpresa. Brilla come la luna! Dovremmo chiamarla Chiaro di Luna! Chiaro di Luna? È così bella! La moglie prese un panno e vi pose sopra Chiaro di Luna. Mentre la ammirava, una leggera brezza uscì dalla finestra. La piccola bambina quasi volò via dalle mani della donna. Cercò di tenere Chiaro di Luna il più saldamente possibile. Infine, quando il vento si fu fermato, il panno si staccò e la piccola si trasformò in una bambina di dimensioni reali. I due si guardarono l'un l'altra sorpresi. La nostra piccola Chiaro di Luna ci farà del bene, non credi? Il mattino seguente, il tagliatore di bambù si recò di nuovo nella foresta per tagliare i bambù. Il tagliatore di bambù e sua moglie ne erano certi. Era la loro piccola Chiaro di Luna che aveva portato la fortuna. Da quel momento in poi, il tagliatore di bambù tornò sempre a casa con una pepita d'oro. E ben presto divennero ricchi. Davano buon cibo e abiti di seta alla loro piccola Chiaro di Luna. Passarono i mesi e la loro piccola figlia cresceva più veloce che mai. In un breve periodo di tempo, Chiaro di Luna divenne una bellissima giovane donna. I suoi capelli erano più setosi dei vestiti costosi che indossava. I suoi occhi brillavano come stelle. La sua pelle era morbida come una piuma e il suo sorriso era più luminoso della stessa luna. Era probabilmente la donna più bella della terra. Ma il tagliatore di bambù aveva qualcos'altro di cui preoccuparsi. Gli abitanti del villaggio avevano cominciato a chiedergli della bella ragazza nella loro casa. Una notte, mentre Chiaro di Luna si stava addormentando, il tagliatore di bambù disse a sua moglie: «Sono preoccupato. Ho detto a tutti che l'abbiamo trovata nella foresta da sola e che l'abbiamo portata a casa per prenderci cura di lei. Ma ora ha raggiunto la maggiore età e tutti parlano della sua bellezza». «Lo so. Non possiamo tenerla per sempre in questa casa». Il giorno seguente, il tagliatore di bambù parlò con la figlia del suo matrimonio. Le disse che c'erano molti corteggiatori che avevano chiesto la sua mano. «No, padre, non posso vivere senza di te. Perché mi stai mandando via?» «Oh, mia adorabile bambina, neanche io posso vivere senza di te, ma non posso tenerti in questa casa per sempre. Ti voglio bene, ma l'amore non insegna ad essere egoisti. devo lasciarti andare a vivere la tua vita. Non ti obbligherò mai a sposare qualcuno contro il tuo desiderio, ma almeno incontra quei pretendenti, vuoi? Chiaro di Luna amava molto suo padre e non poteva dirgli di no. Il giorno dopo, 5 giovani corteggiatori vennero a vedere Chiaro di Luna. Non potevano toglierle gli occhi di dosso. Lei li guardava senza un sorriso sul viso e parlava con voce priva di eccitazione. Chiederò a tutti voi di prendermi cose diverse da luoghi diversi. Sposerò solo colui che riuscirà a portarmi ciò che chiedo. Ti porterò la luna, se la chiedi, amore mio. Basta che tu lo chieda. Ti dirò 2 parole. Va via! La bella signorina non ha bisogno della tua luna noiosa. Le porterò tutte le stelle luccicanti se lo desidera. Non ascoltarli, principessa. Ti porterò la perla più lucente dell'oceano. Non voglio la luna, nessuna stella e nessuna perla dall'oceano. Voglio esattamente ciò che chiederò a ciascuno di voi. Poi chiese al primo corteggiatore di portarle una ciotola di pietra da un monaco in India. Ma la ciotola deve brillare più di me. Al secondo pretendente chiese un ramo dell'unico albero che cresceva all'apice della montagna più alta del mare orientale. Le sue radici erano fatte di argento e il suo tronco d'oro. I suoi rami avevano gioielli anziché frutti. E voglio il ramo di quell'albero. Non mancarmi di rispetto portandone uno falso. Al terzo pretendente chiese di andare in Cina e portare la veste del ratto del fuoco. Al quarto chiese di portare il gioiello che aveva 7 colori. Giaceva sulla testa di un drago. E infine... Trova la rondine che ha una conchiglia nello stomaco e portami quella conchiglia. Grazie a tutti per essere venuti. Chiaro di Luna sapeva che i compiti erano impossibili, ma questo era l'unico modo per lei di rimanere con i suoi genitori per sempre. Passarono le settimane, ma i corteggiatori non tornarono. Il tagliatore di bambù raccontò alla moglie che il secondo pretendente era stato sorpreso da una tempesta nel mare orientale e tornò senza il ramo. Il terzo pretendente cercò di trovare il ratto del fuoco, ma invece trovò delle oche che lo morsero. Il quarto cercò di trovare il drago, ma quando gli venne chiesto di entrare nella foresta oscura, spaventato, rinunciò. E il quinto cercò di prendere la rondine, ma questa in cambio lo beccò. L'unico pretendente che tornò fu quello a cui fu chiesto di portare una ciotola di pietra da un monaco in India. Portò la ciotola più lucida, ma non poteva splendere più luminosamente della stessa Chiaro di Luna. Non c'è nessuno in questa terra che è in grado di sposare nostra figlia? L'imperatore, a casa nostra! Oh, siamo benedetti! Sono io che devo inchinarmi a te, perché sono venuto a chiedere la mano di tua figlia in matrimonio. Ho sentito delle cose che ha chiesto a coloro che desideravano sposarla. Con il tuo permesso vorrei parlarle e scoprire quale compito vorrà assegnarmi. Certo, per favore siediti. La chiamerò. L'imperatore aspettò nervosamente di incontrare Chiaro di Luna. Mentre usciva, fu colpito dalla sua bellezza. Era deciso a sposarla, ma Chiaro di Luna aveva qualcosa da dire. Oh, mio signore, so che puoi darmi tutto ciò che desidero. Il gioiello del drago, la veste del ratto del fuoco, il ramo del tronco d'oro sono sfide che puoi facilmente superare. Quindi ti chiedo solo una cosa. Rispetta il mio desiderio di non volermi sposare e non pretendere di sapere il perché. Hai ragione. Posso darti tutto ciò che desideri. E se è questo quello che chiedi, allora il tuo desiderio è per me un ordine. Ma posso chiedere qualcosa in cambio? Sei una donna molto forte. Posso avere l'onore di essere tuo amico? L'imperatore e Chiaro di Luna rimasero amici e parlarono spesso. Il tagliatore di bambù non lasciò entrare altri corteggiatori. Non voleva più turbare la sua Chiaro di Luna. Una notte, mentre entrava nella sua stanza, vide che Chiaro di Luna era seduta vicino alla finestra. Stava fissando la luna e i suoi occhi erano pieni di lacrime. Chiaro di Luna, perché stai piangendo? Ogni notte faccio lo stesso sogno, padre. Non te l'ho mai detto perché non volevo che ti preoccupassi. Che sogno? Sogno di essere portata sulla luna dalla gente della luna. E ieri sera una voce mi ha detto che il giorno è arrivato. Il 15° giorno di questo mese verranno a prendermi. Non voglio lasciarti. Il tagliatore di bambù guardò la luna. In tutti questi mesi, per la prima volta, si rese conto che la luna sembrava opaca, come se qualcuno avesse rubato la sua luce. Era preoccupato per sua figlia. Immediatamente inviò un messaggio all'imperatore e chiese il suo aiuto. L'imperatore giurò di non lasciare che qualcuno portasse via la sua Chiaro di Luna. Il 15° giorno di questo mese voglio 2000 guardie reali fuori dalla casa di Chiaro di Luna. Nessuno deve toccarla. Il 15° giorno era arrivato. La casa di Chiaro di Luna era circondata da 2000 guardie reali, pronte con le loro frecce. L'imperatore stesso estrasse la spada e si piazzò davanti alla casa. Il tagliatore di bambù portò Chiaro di Luna nel seminterrato. Sua madre la strinse forte, tutti erano pronti a proteggerla. Poi, improvvisamente, una luce brillante arrivò dal cielo. Cos'è quello? Non riesco a vedere nulla! Un bellissimo carro scese a terra con molte piccole fate che volavano intorno. Suonavano una bella melodia con i loro flauti. All'improvviso, Chiaro di Luna chiuse gli occhi e velò verso la musica. Volò fuori dalla sua cantina, con i suoi genitori che le correvano dietro. Le fate sfiorarono Chiaro di Luna con una piuma argentata e lucente, e il vestito di Chiaro di Luna si trasformò in un abito lungo, bianco e morbido. Aprì gli occhi e sorrise vivacemente. La sua paura era sparita. Andò dai suoi genitori e li abbracciò. Padre, ti sei preso così bene cura di me, ma devo tornare dalla mia gente per fare il mio dovere. Cosa? Non capisco. La luna è spenta e opaca perché io sono qui sulla terra. Io sono il Chiaro di Luna. La luna è incompleta senza di me. Sono la luce che guida l'umanità nelle loro notti oscure. Mi sono allontanata durante il giorno e ho dimenticato chi fossi quando ho messo piede sulla terra. Confusa e stanca, mi sono seduta nel bambù e tu mi hai trovata. Quindi devi andare ora. Non ti mancheremo. Madre, verrò a trovarti ogni notte. Non mi vedrai solo quando la luna non sarà in cielo. Sei stato un grande amico, ma devo andarmene ora. Chiaro di Luna si sedette nel carro e salutò felicemente il popolo della terra. Non era triste, perché sapeva che avrebbe sempre vegliato su di loro dal cielo. Il carro la portò sulla luna. Il tagliatore di bambù si asciugò le lacrime e aspettò il ritorno della sua Chiaro di Luna. E lei tornò, come la luce della luna piena. La luna brillava in tutto il suo splendore. L'imperatore non si sposò mai. Ogni notte fissava la luna per ore e sorrideva all'amore della sua vita. Il tagliatore di bambù trasformò la sua grande casa nella vecchia piccola capanna, perché quello era l'unico modo per far entrare chiaro di luna nella loro casa, attraverso il tetto, nella notte. Il tagliatore di bambù e sua moglie passarono il resto della loro vita in pace. Fine.